Letture di Radio 24. Alla morte di Karol Wojtyla, molti prelati avrebbero voluto bruciare i tempi e proclamare Giovanni Paolo II santo subito. Ma Ratzinger scelse la via della beatificazione. Il vaticanista della stampa, Andrea Tornielli, ci spiega perché. Nelle prime settimane del suo pontificato, Benedetto XVI prese seriamente in considerazione la richiesta di proclamare Papa Wojtyla santo subito, cioè di aprire direttamente un processo per la canonizzazione, saltando il gradino intermedio della beatificazione. Un evento che sarebbe stato senza precedenti nell'epoca moderna. Ratzinger non disse subito di no. Valutò la proposta che dava forma a un'aspirazione dello stesso segretario particolare di Wojtyla, Stanislav Dziwisz. Chiese consiglio ad alcuni collaboratori della Curia Romana e alla fine stabilì di consentire subito l'apertura del processo, senza attendere i 5 anni dalla morte, ma senza saltare il gradino di beato. Bisogna tornare alla grande emozione dei giorni successivi alla morte di Giovanni Paolo II per comprendere ciò che è accaduto nei sacri palazzi d'Oltretevere. I cardinali, mentre si riunivano per decidere lo svolgimento dei funerali e preparare il conclave dal quale sarebbe stato eletto Benedetto XVI, scorgevano la fiumana ininterrotta di persone sfilare davanti alla salma di Wojtyla. Il cardinale slovacco Josef Tomko, prefetto emerito di Propaganda Fide e amico del pontefice appena scomparso, si fece promotore di una raccolta di firme tra i colleghi porporati per chiedere al nuovo papa, chiunque fosse, di aprire la causa per portare il predecessore sugli altari. L'allora decano del collegio cardinalizio, Josef Ratzinger, nell'omelia della messa funebre parlò di Wojtyla affacciato alla finestra del cielo, e le sue parole vennero considerate come un viatico all'aureola. Subito dopo l'elezione fu il cardinale Ruini a presentargli la petizione dei porporati. Da parte di Dziwisz arrivò invece a Benedetto XVI il suggerimento di procedere per la proclamazione a santo subito. Ratzinger, che aveva conosciuto da vicino Wojtyla e ne era stato uno dei più longevi e stretti collaboratori, volle valutare con calma pro e contro. Da una parte la fama di santità diffusa a livello popolare e l'eccezionalità della figura del predecessore, dall'altra le regole canoniche e l'impatto che un tale strappo avrebbe avuto passando subito a una proclamazione di santità. Il nuovo papa sapeva bene che qualcosa di simile era stato preso in considerazione appena 2 anni prima, nel giugno del 2003, quando il segretario di Stato, Angelo Sodano, aveva scritto una lettera a nome di Giovanni Paolo II ad alcuni cardinali della Curia Romana, chiedendo loro un parere sulla possibilità di proclamare santa subito Madre Teresa di Calcutta, senza passare per la beatificazione. A Papa Wojtyla quell'idea non dispiaceva, ma volle consultare i collaboratori che lo sconsigliarono. Così Madre Teresa divenne beata, non santa. Consultati alcuni collaboratori, Benedetto XVI ha dunque seguito la stessa linea. Ha deciso di derogare all'attesa dei 5 anni, ma ha stabilito che la causa del predecessore, pur seguendo una corsia preferenziale in quanto ai tempi, avvenisse secondo procedure regolari, senza scorciatoie o sconti. Il fatto che ad appena 6 anni dalla morte Giovanni Paolo II diventi beato è già di per sé un fatto eccezionale. Da più di un millennio, infatti, un papa non eleva agli altari il suo immediato predecessore. L'ultimo papa che si sarebbe voluto santo subito, prima di Wojtyla, è stato Giovanni XXIII. I padri del Vaticano II proposero al suo successore Paolo VI di canonizzarlo in concilio per acclamazione. Anche quella volta il papa scelse di agire diversamente e fece iniziare un regolare processo per Roncalli, affiancandone un altro per Pio XII. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Perché Wojtyla non diventò santo subito?» di Andrea Tornielli, dalla stampa di mercoledì 27 maggio. È possibile il turismo sostenibile? L'Italia a misura responsabile è stata fotografata da una guida recentemente pubblicata. Piccole ma grandi scelte su dove mangiare, dormire o fare shopping, entrando nel pieno del tessuto sociale del luogo. Dormire a Milano in un ex ospedale psichiatrico. mangiare a Roma pizza e spaghetti cucinati e serviti da ragazzi down, andare al cinema a Napoli in una vecchia sala riaperta nel quartiere di Ponticelli e fare shopping a Palermo in un emporio pizzo free con prodotti di artigiani che si sono ribellati all'estorsione. Ecco l'Italia a misura di turista responsabile, raccontata e fotografata da una guida pubblicata da Altra Economia. L'idea è quella di proporre un'altra Italia, spiega Silvia Leone, una delle curatrici. E così i nostri collaboratori hanno cercato e sperimentato, in 20 città italiane, tutte le possibilità per mangiare bio, dormire in strutture alternative, fare shopping consapevole e muoversi lungo itinerari inusuali, con un impatto ambientale minimo. Oltre 1000 realtà censite, da Trieste a Palermo, con mappature dettagliate e ricche di indicazioni sulle città sostenibili. Si parte dall'Aquila, in un tessuto tutto da ricostruire, dove la società civile è in pieno fermento. Qui madre e figlia hanno aperto il Chiassetto, un bed and breakfast a ridosso della zona rossa, con colazione rigorosamente bio. La bottega Il Sicomoro propone invece escursioni tra borghi medievali, buona cucina e paesaggi mozzafiato, per dimostrare che tutto non è andato perso. E non può mancare un passaggio a Piazza d'Arti, il nuovo polo culturale nato su strutture temporanee, diventato un centro artistico e di aggregazione giovanile. O una visita a Luca Sebastiani, agricoltore e flautista, che coltiva farro, zafferano, ceci e cipolle con metodi naturali, concimando solo con letame. L'intento è di evidenziare ciò che non viene segnalato da altre guide, sottolinea Silvia Leone. Una guida che ti fa entrare in una città in punta di piedi. Sei turista responsabile grazie a piccole scelte sul dove mangiare, dove dormire o cosa acquistare, senza perderti le bellezze artistiche della città, ma poi diventi anche cittadino di quel luogo proprio perché entri a far parte del tessuto sociale. A Milano, ad esempio, si può dormire all'ostello Olinda, dentro l'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. Si può acquistare il giornale a Carta Canta, una delle prime edicole solidali d'Italia, e si può ammirare il centro fashion proposto dal collettivo di moda critica L'Isola della Moda, che contamina stili e tendenze con caratteristiche etiche degli abiti. Una Napoli che non ti aspetti è invece quella ridisegnata da Ciclofficina, che propone percorsi su due ruote in città, oppure le camminate ideate dall'associazione Scarpe Diem. Per lo shopping nel quartiere Sanità, la comunità Crescere Insieme, che accoglie persone con problemi di dipendenza, realizza statue per il presepe. Per chi è alla ricerca di un mandolino e di una chitarra tradizionale, Lute Arte propone strumenti lavorati con tecniche tradizionali, certifica la provenienza del legno e smaltisce gli scarti del ligno offrendoli ai forni delle pizzerie vicine. A Palermo, l'emporio Pizzo Free, oltre a proporre prodotti di imprenditori, agricoltori e commercianti che hanno detto no alla mafia, è anche il punto di riferimento per le visite lampo in centro con l'Ecotalpa, un riscio adibito al trasporto turistico. Scelte consapevoli e di consumo critico non vanno certo a diminuire la qualità delle proposte, che invece contengono caratteristiche eccellenti e di altissimo livello. Perché il turista responsabile è anche e soprattutto un turista felice. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Gli indirizzi del turista a impatto zero di Federico Taddia dalla stampa di mercoledì 27 aprile.